Ah, finalmente sulla Terra. I piaceri di Venere. Documentario sulle pratiche sesso-amatorie degli abitanti dell'Inferno Verde. Emozionante, rivelatore, i conquistatori del sole, dedicato ai diavoli senza paura, ai Marines dello spazio. Tarzan contro i divoratori di carogne di Saturno. Cosa succede? Venghino, venghino, liberatevi degli istinti repressi, sparate a una donna, giovinotto, sì, proprio tu, vuoi provare? Ma i bersagli sono quelle ragazze laggiù. Ma certo, vere ragazze, anche carine, vieni, vieni. E usate proiettili veri. Ma sicuro, c'è una legge sulla terra contro la pubblicità fasulla, cosa credi? Proiettili vere, ragazze vere, dai, fatti sotto e buttane giù una. Forza ragazzo, scommetto che mi sbagli, non riusciresti a centrare neanche un'astronave di traverso. Ma ci sono anche tirassegni con uomini. Si capisce, ma non mi dirai che sei un invertito. Ma no, no. Vieni da fuori, Sì, ma come hai fatto a capirlo? Dal vestito, lo capisco sempre dal vestito. Su, forza, vieni, uccidi una donna, è meglio di una sbronza. Ma io, ecco, non so... Senti, ragazzo, guarda che cosa ho qui. Per un prezzo ridicolmente basso ti lascio usare questo mitra, vero, vero. Puoi distruggere tutto il locale, spaccare le impalcature, sforacchiare i muri. Questo spara confetti calibro 45 e, credi a me, scalcia come un mulo. Credi a me. Di nuovo, puoi veramente dire di aver sparato solo dopo che hai sparato con un mitra? Oh, non mi interessa. Senti un po', dovrei avere ancora un paio di bombe a mano, ma se le preferisci... No, per favore. Basta, basta. Allo stesso prezzo, spara anche a me, ma se queste sono le tue preferenze, per quanto non l'avrei proprio mai immaginato, che ne dici? No, no, ma è disgustoso. Basta, non sei dell'umore giusto. Lo dicevo, beh, non importa, tanto tengo aperto 24 ore su 24 e quando ti verrà voglia... Mai. Ti aspetto! Mi dia una birra. Sei straniero, Sì, ma come hai fatto a capirlo? Dalla pettinatura. Lo capisco sempre dalla pettinatura. E da dove arrivi? Da Kazanga Quarto. Ah, quel piccolo coso vicino ad Arturo. Sei un contadino, Sì. Certo che qui sulla terra è tutto diverso. Ma allora la conosci già bene? No. A dire il vero, è la prima volta che ci vengo. Ma deve sapere che una volta è arrivato su Kazanka un venditore ambulante che ha cominciato a parlarci della terra. Era la festa per il raccolto. Volete sentir parlare della madre terra, Non c'è posto dell'universo uguale alla vecchia terra, ve lo assicuro. Sulla Terra, gente, tutto è possibile, niente è proibito. Lo volete capire o no? Niente. Hanno fatto una legge contro le proibizioni. Nessuno si sognerebbe mai di infrangerla, capite? La terra è diversa. Voi contadini siete specializzati nel lavoro dei campi, no? Sulla terra si sono specializzati in cose assolutamente prive di praticità, come la follia, per esempio, la bellezza, la guerra, l'ebbrezza, la purezza, l'orrido e così via. E l'amore? Ah, la Terra è l'unico posto della galassia dove esiste ancora l'amore, ragazza mia. Detroit 2 e Detroit 3 ci hanno provato anche loro, ma l'hanno trovato assai costoso. Helvetia 1 ha deciso che non è conveniente da un punto di vista commerciale. Moracia e Doran V hanno detto che non ne avevano il tempo. Ma come vi ho detto, la Terra è specializzata in cose inutili. Però le fa pagare. Pagare? Certo, la Terra è vecchia, i suoi giacimenti minerari sono ormai esauriti e i suoi campi non producono più. Le sue colonie adesso sono indipendenti, popolate da gente forte e sana come voi, che vuole soldi in cambio della merce. È logico. Così cosa può usare la vecchia terra come merce di scambio se non le cose inutili, le cose che rendono piacevole la vita? Ma voi siete stato mai innamorato sulla terra? Sì, sono stato innamorato e adesso viaggio. Comprai così, anche se a un prezzo esorbitante, uno dei suoi vecchi libri. Meraviglioso. Parlava di passioni ardenti, sottolune ispiratrici, di incerte luci dell'alba che rivelano le labbra rosse degli amanti, dei corpi avvinti sulla scura sabbia marina, con il frastuono delle onde che si rompono sugli scogli. E ho risparmiato a lungo, ma ora sono qui. Amico, hai scelto il posto giusto. I tuoi sogni si avvereranno senz'altro. E poi, non c'è forse una legge contro il loro fallimento? Tu, bimbo, forestiero? Sì, e come avete fatto a capirlo? Con le scarpe, capisco sempre dalle scarpe. Vi piace il nostro piccolo pianeta? È così, così confuso, non me l'aspettavo. Naturale, siete un idealista. Sì, questo mi sono detto appena ho visto la vostra bella faccia onesta, sì. Siete venuto sulla Terra con uno scopo preciso o mi sbaglio? Sì, certo, va bene, lo so qual è il vostro scopo, amico. State cercando una guerra che liberi il mondo da tutti i suoi guai e vi dirò in sincerità che siete proprio venuto nel posto giusto. Abbiamo 6 grandi guerre che vanno avanti in continuazione. Nessuno aspetta mai troppo per trovare un posto importante in questa o in quella. Mi dispiace, ma... Giusto, giusto, capisco, ma giusto in questo momento i vilipesi sudditi peruviani sono impegnati in una lotta disperata contro una monarchia decadente e corrotta. Un solo uomo potrebbe capovolgere la situazione e voi potreste essere quell'uomo, ma non vi vedo convinto. Beh, parliamo allora della monarchia. Il vecchio e saggio re del Perù, un re filosofo nel vero senso platonico della parola, sì, attende il vostro aiuto. Il suo piccolo gruppo di scienziati, umanitaristi, guardie svizzere, cavalieri di Malta e contadini fedeli è incalzato da vicino dalla cospirazione rivoluzionaria ispirata da elementi stranieri. Un solo uomo. Sentite, non mi interessa. Forse in Cina gli anarcoidi individualisti preferite forse gli indipendentisti del Galles, oppure, non so, capitalisti giapponesi, oppure se preferite le femministe, i proibizionisti, i piloti selvaggi e cose del genere, vabbè, ci possiamo mettere d'accordo. Ma io non voglio la guerra. Ah, chi può criticarvi? La guerra è l'inferno. Allora penso che siate venuto sulla terra per l'amore. E come fate a saperlo? La guerra e l'amore sono i due prodotti principali della terra. Ne abbiamo sempre avuto in abbondanza fin dall'inizio dei tempi. Sì, però è molto difficile trovare l'amore. Oh, sì, due isolati più avanti, non vi potete sbagliare. Dite che vi manda Joe. Ma è impossibile, non si può andare così. E voi cosa ne sapete dell'amore? Niente, ma... Noi siamo gli esperti, invece. Senti, lo so cosa dicono i libri. Passione ardente sotto le lune ispiratrici. Certo. E i corpi avvinti più la scura sabbia marina col frastuono delle onde che si rompono sugli scogli. Avete letto anche voi quel libro? Già, è l'opuscolo pubblicitario della casa. Senta, adesso devo andare. Ricordate, due isolati più avanti, non potete sbagliare. Allo, ciao piccolo! Società Anonima Amore, aperto 24 ore su 24. Entra e prova. Oh, buongiorno. Oh, buongiorno, signore. Come vanno le cose su Kazanga? Oh, come fate a capire che vengo da Kazanka? Ah già, ok, aspettate. Dal vestito, O dalle scarpe? Ah, o forse dalla pettinatura? No, dalla camicia. Lo capisco sempre dalla camicia. Mi chiamo Tate e sono qui per servirvi nel migliore dei modi, signor? Simon, Alfred Simon. Accomodatevi, signor Simon. Sigaretta? Un drink? Non rimpiangerete di essere venuto qui. Siamo la più antica ditta fornitrice di amore che ci sia oggi sulla piazza e anche la più grande. Più grande della nostra diretta concorrente, la Passioni Illimitate. Inoltre le nostre tariffe sono assai più economiche, mentre vi offriamo un prodotto migliore. Dunque, signore, non c'è motivo di perdere tempo. Avete fatto molta strada per avere l'amore e avrete l'amore. Oh sì, va bene. Non vorrei sembrarvi volgare, ma... non capisco una cosa, insomma. Credo di essere venuto nel posto sbagliato, ecco. Non ho viaggiato fin qui solo per... insomma, voglio dire, siete proprio in grado di vendermi l'amore. Ma proprio l'amore. Cioè il vostro è proprio il vero amore. Ma certo, questo è il punto. Tutti possono comprare il sesso. Buon Dio, è la cosa meno cara di tutto l'universo fin dall'inizio della storia. Ma l'amore è una cosa rara. L'amore è una cosa speciale. L'amore si può trovare solo sulla terra. Avete letto il nostro opuscolo? I corpi frementi passione sulla scura sabbia marina. Sì, quello. L'ho scritto io. Toccante, eh? Voi non potreste provare un sentimento del genere per chiunque, signor Simon. Lo potete provare solo per chi vi ama. Comunque non può essere un sentimento genuino, o mi sbaglio? Certo che lo è. Se vi vendessimo amore falso, verremmo immediatamente schedati. Le leggi sulla pubblicità sono assai rigorose qui sulla Terra. Si può vendere tutto, purché sia genuino. Questa è etica, signor Simon. No, caro signore, non fate questo errore. Il nostro prodotto non è un surrogato. È l'esatto sentimento di cui poeti e scrittori hanno parlato da secoli. Mediante le meraviglie della scienza moderna, noi vi offriamo questo sentimento secondo la vostra convenienza, in una confezione allettante, totalmente a vostra disposizione e a un prezzo ridicolmente basso. Sì, d'accordo, ma mi immaginavo qualcosa di più spontaneo. La spontaneità è il suo fascino. I nostri laboratori di ricerca ci stanno lavorando su. Credetemi, non c'è niente che la scienza non possa produrre se esiste sul mercato. C'è qualcosa che non mi piace, però. Credo che andrò al cinema. Aspettate! Voi credete che si voglia approfittare di voi? Credete che vi presenteremo una ragazza che farà finta di essere innamorata di voi, mentre in realtà non lo è? È così? Beh, credo proprio di sì. Vi sbagliate. Per prima cosa sarebbe troppo costoso. In secondo luogo, il logorio mentale e la tensione della ragazza sarebbero tremendi. Sarebbe psicologicamente insopportabile per lei vivere una menzogna di tale portata. E allora come fate? Utilizzando le nostre conoscenze scientifiche sulla mente umana. Ditemi una cosa, voi siete un giovanotto intelligente, non pensate che sapreste distinguere il vero amore da una contraffazione? Ah, certamente. Magnifico, è la vostra garanzia. Se non ne sarete soddisfatto non ci darete un soldo. Ma via, perché indugiare? Eminenti psicologi affermano che il vero amore fortifica e ristora la salute. È un balsamo per l'ego depresso. Ricostruisce l'equilibrio ormonale e migliora le condizioni fisiche generali. Nell'amore che noi forniamo c'è tutto. Un profondo e costante affetto, una passione senza limiti, una totale fedeltà, un attaccamento quasi mistico ai vostri difetti, come alle vostre virtù. Un completo desiderio di piacere e infine la cosa più importante che solo la società anonima amore può offrire, quel guizzo incontrollabile, quel momento di cecità assoluta che è l'amore a prima vista. La signorina Penny Bright, il signor Alfred Simon. Oh, Penny. Alfred. E Alfred se ne andò con la sua amata. Visse passioni ardenti sotto la luna ispiratrice e le incerte luci dell'alba rivelarono le labbra rosse degli amanti e i loro corpi avvinti sulla scura sabbia marina mentre le onde si rompevano sugli scogli. Thank you. Allora, signor Simon, è stato vero amore? Oh, sì. E ne siete stato soddisfatto? Oh, sì, era amore, il vero amore. Ma perché lei ha insistito per tornare? Ordine post-ipnotico. Come? Cosa vi aspettavate? Tutti vogliono l'amore, ma pochi vogliono pagarlo. Ecco il vostro conto, signor Simon. Oh, non era indispensabile tornare. Vi avrei certamente pagato con il disturbo di averci fatto conoscere. Ma dov'è lei? Adesso, cosa le avete fatto? Per favore, cercate di calmarvi. Non voglio calmarmi, voglio Penny. Impossibile, vi prego di smetterla con questa scena disgustosa. Volete spillarmi altri soldi? Quanto devo pagare per togliervela dalle grinfie? Non dica sciocchezze, siamo una ditta vecchia e rispettabile. Se alzate ancora la voce sarò costretto a farvi buttar fuori. Ok, scusatemi, ma lei mi ama. È stato un amore speciale, unico. È naturale, ogni nostro amore è così. Ma come sapete è stato prodotto nella stessa medesima maniera degli altri. Come prodotto? Ma io pensavo fosse una cosa naturale. Una selezione naturale viene fatta da noi alcuni secoli fa, ma era una cosa troppo noiosa e inaccettabile da un punto di vista commerciale. Perché darsi tanti fastidi quando con un'opportuna stimolazione di vari centri nervosi subcorticali e con un opportuno condizionamento potevamo ottenere ogni genere di sentimento? Il risultato? Penny totalmente innamorata di voi. La vostra personale propensione per il suo particolare tipo somatico, da noi esattamente somatico. Prevista. Ha fatto il resto. Aggiungete anche la scura sabbia marina, la luna ispiratrice, la pallida luce dell'alba. No, ma allora può amare chiunque. Può venire condizionata ad amare chiunque. Ma come ha potuto fare un lavoro così orribile? Ha firmato un contratto, come il solito. E poi non è affatto un lavoro orribile, non c'è niente di orribile nell'amore. Perché questo è un prodotto genuino. Scienziati senza pregiudizi l'hanno sottoposto a test qualitativi, confrontandolo con l'amore naturale. In ogni caso, il nostro è il risultato più profondo, passionale, fervido. Sentitemi bene, non mi importa delle vostre spiegazioni scientifiche. Io amo Penny, lei ama me. E voglio sposarla. Andiamo ragazzo, non potete veramente desiderare di sposare una ragazza così. Ma se è un matrimonio che volete, possiamo anche combinarvene uno. Vi posso organizzare un incontro d'amore idilliaco e spontaneo con una vergine garantita dall'ispezione governativa e... No, per carità, amo Penny, voglio parlare con lei. Ma cosa credete? Penny adesso è innamorata di un altro. Maledetto. Fermatelo, prendetelo. Presto. Buttatelo via, fuori. Via. Venghino, liberatevi dagli istinti repressi, sparate a una donna. Giovanotto, sì, proprio tu, vuoi provare? Datemi qualcosa. Pronte, ragazze? Allora, il racconto, lo ripetiamo, di questa sera era Pellegrinaggio sulla terra di Scicli. La sceneggiatura è dell'eminente sceneggiatore Enrico Miotto, noto in tutti gli studi di regia di fantascienza. Gli attori sono Simon, che sarebbe Carlo. Poi il direttore dell'azienda pubblicitaria, cioè non dell'azienda pubblica, dell'azienda dell'amore, di produzione dell'amore, che è... Guido? Non si sente molto. Guido? Ah no, Guido? Ah ecco, adesso si sente. Sì, si sente il direttore. Direttore? Guido sono io, ecco. Direttore. Poi c'è, diciamo, l'uomo del tirassegno, quello che... Enrico? Enrico, fatti sentire. Enrico? Enrico? No, no, volete venire a sparare ancora o qualcosa? Poi c'è il barman. Massimo. Massimo. Voce fuori campo e Penny. Stefania. Ok, ciao ciao.